Allora, buonasera, è Altofest Napoli 2022. Ci troviamo sul mitico terrazzo di Anna e Giovanni, quartier generale di Altofest, che affaccia sull'altrettanto mitica via Mezzocannone. E siamo in compagnia di Amalia Franco. Ciao. Ciao, Ciao. Un'artista indipendente, autrice e performer. E Amalia è ospite di Deborah Di Lorenzo, donatrice di spazio. E ad Amalia faremo delle domande per la rubrica Intravista Casa in Risonanza. Questa è la voce di Pippo Pirozzi. Buonasera Amalia, io invece sono Marina Galzignato. Grazie per questa disponibilità. La prima domanda che ti poniamo è, in poche parole, potresti descriverci la casa di Deborah nella quale sei stata accolta? L'appartamento di Deborah e Dario è un appartamento al sesto piano, quindi bisogna fare un bel po' di scale per arrivarci, ci sono dei corridoi labirintici. Una volta entrati, la porta d'ingresso è di fronte anche alla porta del balcone che dà sulla Certosa. Quindi abbiamo entrando subito uno spazio che si apre e è una casa molto luminosa. Arriva un venticello bellissimo, siamo vicinissimi al mare, è un appartamento piccolo, molto accogliente. Dalla prima descrizione già hai detto delle cose abbastanza che colpiscono e ti chiediamo qualcosa in più. Entrando nella casa, anche se qualcosa l'hai già detto, cosa hai trovato di particolare che ti ha colpito molto o più delle altre e che ha risuonato in te in maniera più significativa? A parte Deborah e Dario, ho trovato una fotografia che ritrae il ritrovamento della statua di Ulisse, cioè un sub, e questa statua nel momento in cui viene tirata fuori dal mare. Bello, grazie. E in relazione a quello che sarà il lavoro che stai preparando e che stai adattando alla casa, c'è stato qualche aspetto in particolare? In relazione al mio lavoro, un elemento che è entrato prepotentemente è il suono della città che viene da fuori, perché ho scelto di lavorare a finestre aperte per il mio piacere personale e anche perché mi interessa, non solo l'appartamento, ma il fatto che l'appartamento ovviamente sia a Napoli. Quindi questo ha, modificato notevolmente quello che è l'impianto canonico del lavoro. A fianco a questo discorso, vi sono le storie che, affini all'opera di cui vi parlavo prima, sono emerse da Dario, che è un restauratore, e mi ha raccontato per l'appunto di ritrovamenti, di modalità conservative o ricostruttive, secondo cui avvengono per l'appunto i recuperi delle opere. Questo è particolarmente inerente al mio lavoro, quello degli affreschi e della loro conservazione o ricostruzione, al mio lavoro dicevo che sono per l'appunto esercizi di sparizione. Ok, grazie. Allora, Amalia, un'ultima domanda. Tu hai conosciuto da poco chi ti ospita, ma ti sentiresti di raccontare queste persone, i donatori di spazio, sulla base dell'osservazione della casa? Questa domanda richiede un tempo di pensiero, mi dispiace Va bene. farvi attendere. Hai ragione. Però, allora, c'è un'essenzialità da un certo punto di vista della casa, un'essenzialità che è determinata da una chiarezza, mi pare, è una chiarezza che associo a, alle persone che la abitano. E poi c'è un amore sicuramente per l'arte che emerge in diverse declinazioni, passando dall'architettura alla scultura, al design, alla fotografia. Quindi emerge uno spirito creativo e questa chiarezza, che forse è una cosa più intima, altra, che per me che è una suggestione data da una conoscenza breve. Breve. Grazie. Grazie a te davvero. Grazie a te.